Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. È ancora buon anno, è ormai cominciato da qualche settimana l'anno nuovo, ma facciamo gli auguri di buon anno anche all'avvocato Paolo Giugioli. Buongiorno e buon anno. Buongiorno. L'avvocato Paolo Giugioli è presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Come mai avvocato? Quando le è venuta l'idea di fare l'avvocato, quando era piccolo? Da piccolo no, anzi la mia intenzione era quella di diventare, come mio padre, un industriale, se non che le cose della vita cambiano. Io ero rimasto a Milano da solo perché mio padre aveva trasferito la propria residenza in altri luoghi e sono uscito dall'università statale il giorno in cui mi laureai. Incontrai un amico che sarà laureato prima di me e mi disse: vieni che ti faccio sentire o ti faccio vedere quello che succede in un'aula di tribunale. E andrai in una, all'epoca c'era la pretura, andai in che anni erano? Anni 60? 1970. E andai in un'aula di pretura dove c'era quello che poi è diventato presidente della Repubblica, Leone, e vidi che stava a fare un processo in cui si parlava di un certo Rossi, un cognome piuttosto certo, generico, diffuso. Io dissi: ma come, questo viene da Napoli per andare a fare un processo? Poi mi resi conto dal luogo dove abitava che forse uno era uno che pagava bene. E quindi la mia prima esperienza così sentita fu appunto di questo procedimento. E poi incominciai ad andare in giro a cercare qualche avvocato con il quale fare il tirocinio, lo trovai, certo. eccetera. Ma è difficile diventare avvocati? Era difficile allora? Allora forse adesso? Era un po' più difficile di adesso, nel senso che il numero di avvocati era una cosa limitata. Per farle un esempio, nel 1970 gli avvocati erano a Milano erano circa 2000, oggi ne sono 17.500. Un po' troppi, possiamo dirlo. Quando io nel 1970 divenni avvocato, diventi procuratore, che all'epoca non si diventava avvocati, divenni procuratore e quando entravo in tribunale si riconosceva: oh, quello è quello nuovo. Oggi, quando l'entrata di questi avvocati a Milano, per esempio, è di circa 1.000-1.200 l'anno, perché adesso sono proprio avvocati fin dal primo giorno. Cioè non c'è più la figura del procuratore. Non esiste più la figura del procuratore, lei capisce, non li riconosce neanche dopo 2 anni, perché 1.000 persone sono 1.000 persone. Sì. Ecco, detto dal presidente dell'ordine, sono forse troppi adesso. Ma io direi che il numero degli avvocati italiani è il massimo di tutta Europa. Come lei sa, noi abbiamo circa, compresi gli avvocati degli enti pubblici, il numero di avvocati italiani sono di circa, adesso saranno 320.000, perché crescono. Faccio giuramenti una volta al mese in cui ci sono anche 120 nuovi avvocati. Dagli 80 ai 120 nuovi avvocati. È una cosa sterminata e che secondo me non ha senso. Se teniamo conto di quando parlano attualmente delle razionalizzazioni o delle liberalizzazioni. È follia parlare di una liberalizzazione di una categoria che chiamano casta quando è composta di 330.000 soggetti che fanno l'avvocato. Ecco, ma una categoria non dovrebbe un po' autoregolarsi proprio? Negli anni passati non avrebbe potuto porre qualche limite, qualche paletto in più? Ecco, su questo io devo dire la verità. Probabilmente siamo stati troppo leggeri noi quando abbiamo incominciato a fare quelli che controllavano gli esami di avvocato. Adesso siamo noi 2 su 5, ma siamo noi il presidente della commissione, di ogni commissione, e molto probabilmente abbiamo largheggiato troppo. È da quel momento che l'avvocatura è cresciuta in modo smodato. Ecco, ma nonostante questa avvocatura molto molto ampia, c'è anche un problema di lentezza della giustizia, di processi che non si riescono a concludere, di durata dei processi, che è un record mondiale con l'italiano. È veramente un record mondiale, siamo al 157 o 181esimo posto dopo il Dongbai, un paese senza offesa per nessuno, certo. Ma certamente non con le nostre caratteristiche giuridiche. E purtroppo la nostra lungaggine della giustizia è rappresentata da tanti problemi. Problemi che forse adesso, io non parlo di Milano perché è un'osa a parte, ma in tutto il resto d'Italia bisognerebbe riuscire ad intervenire e a fare qualcosa di vero. Cioè, non è colpa degli avvocati, questo vuol dire lei. Questo qui onestamente parlando. Qualche malizioso potrebbe dire, ma tiriamola un po' in lunga così diamo un lavoro un po' a tutti. Questa qui, scusi, la solita idiozia che viene detta sulla lungaggine della giustizia rappresentante l'avvocato. Lei è lì e dice, voglio il rinvio per fare una determinata cosa. Ebbene, il magistrato è quello che regola la udienza, che indica dove bisogna andare, per quanto tempo e che cosa fare. Se il magistrato, come capita qualche volta a Milano, faccio un esempio banalissimo, capita anche a me, in corte d'appello, nel dicembre del 2010, ha rinviato per la precisazione e conclusione, che è l'ultima udienza, al 2016. Lei capisce, non dipende dall'avvocato, anzi l'avvocato vorrebbe che la cosa prima arriva meglio è, perché almeno può fare la nota spese quando ha finito la sua attività. Dopotutto si parla di processi immediati, quelli che si fanno dopo 6 mesi. Ah beh, certo, è una bella cosa. Fare un processo con un procedimento che viene rinviato come ultima udienza a 6 mesi di distanza dall'udienza ultima, dall'udienza precedente, credo che sarebbe una bella cosa. Ecco, ma come mai, e adesso io faccio l'avvocato del diavolo facendole certe domande, ma come mai, allora è colpa di una magistratura in cui ci sono pochi magistrati? Quali sono i problemi del processo? I problemi sono connessi e tanti e tanti. Bisognerebbe prima di tutto governare meglio la magistratura, cioè imporre determinate cose che si stanno in questo momento facendo. Cioè io, presidente del tribunale, ma questo non avviene a Milano, perché a Milano abbiamo un presidente del tribunale robusto, io, presidente della Corte d'Appello, ma questo non avviene a Milano, perché adesso è venuto il presidente Canzio, che è una persona molto in gamba e che sta già predisponendo qualche cosa di nuovo, ma in qualsiasi paese, in qualsiasi città d'Italia, il presidente della sezione ha l'obbligo di andare a controllare che cosa fa quello che non è presidente di quella sezione, non sottoposti, perché non c'è sottoposizione, sì, certo, ma coloro i quali sono in quella sezione. Fanno un rinvio di 2 anni, 3 anni. Uno dice, ma perché vado a controllare quello che stai facendo? Questa è una cosa che non avviene. Bisognerebbe che ognuno si prendesse le proprie responsabilità e che quindi, di fronte a una situazione di questo genere, dicesse qual è il problema. Poi i problemi sono tantissimi, sono rappresentati da mancanza di personale, noi abbiamo un 30% di cancellieri che mancano, poi ci sono anche tante altre mancanze, mancanza di soldi, impossibilità di fare lo straordinario, udienze che dovrebbero essere fatte, a mio avviso, tutti i giorni, e le fanno quando vogliono loro, insomma. Ecco, ma certamente sarebbe bisogno di una grande riforma, ogni grande riforma ha anche bisogno di piccoli passi. Qual è la priorità, secondo lei, da fare? La priorità è eliminare l'arretrato. Per eliminare l'arretrato, noi avvocati, io in particolare, ebbi a dire al precedente Angelino Alfano e in alcune riunioni che sono state fatte al Consiglio Nazionale Forense, condivise anche da Guido Alpa, che è il presidente del CNF, quella di dire, noi offriamo, gentili signori magistrati, gentile ministero, noi offriamo 20.000 avvocati, per noi 20.000 avvocati rispetto ai 330.000 sono una cosa da ridere, in tutte le corti d'appello d'Italia, e nel giro di un anno e mezzo noi eliminiamo l'arretrato. Non con un'amnistia, proprio. No, facendo le sentenze. Cioè, lei capisce che facendo fare 10 sentenze al mese ad ogni avvocato, le moltiplica, ne diventano circa 150 in un anno, ne mette invece di 10.000, 20.000, se ci vogliono anche 30.000 avvocati, finisce questa roba in pochissimo tempo. E questo... Da quel momento, allora, si deve dire chi è che sgarra va fuori, insomma. Aiuterebbe anche a risolvere il problema delle carceri che sono per metà. Quello però è una questione penalistica, nella quale la velocità, perlomeno qui a Milano, è una cosa abbastanza naturale. Insomma, le direttissime le devi fare entro 24 ore, 48 ore, insomma, non è. E queste si fanno. Queste si fanno. Sì. Grazie per adesso, avvocato Paolo Giugioli, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Incontri. Bentornati al nostro incontro di oggi, ancora con le note di Mozart, riprendiamo il dialogo con Paolo Giugioli, avvocato, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Abbiamo fatto nella prima parte una panoramica un po' dei tanti problemi della giustizia. L'avvocato Giugioli è da 40 anni in pratica in avvocatura. Potesse tornare indietro, rifarebbe ancora l'avvocato? Devo dire che all'epoca ci sono capitato per caso. Sì, lo spiegava prima. Però io adesso ritengo che sia sempre una delle più belle professioni esistenti oggi in Italia. Com'è cambiata in 40 anni la professione dell'avvocato? La professione dell'avvocato è cambiata radicalmente a partire dagli ultimi 10 o 15 anni. Prima le lungaggini, tutta questa roba qui, erano delle banalità. Oggi, obiettivamente, la situazione si sta complicando. Si sta complicando perché, secondo me, non viene dedicata a quella caratteristica di accertare se la giustizia funziona oppure no. Noi non ci rendiamo conto che la giustizia è uno degli elementi essenziali, cardine di un paese. Certo. E questa giustizia che non funziona è anche uno degli elementi in base ai quali lo straniero che deve venire in Italia per investire non ci viene. Ci sono tanti altri problemi, oltre che le lungaggini c'è il fatto che per poter recuperare un credito ci vogliono dei decenni e il più delle volte non si recupera neanche. Ci sono tanti altri problemi che impediscono, se deve chiedere un'autorizzazione per costruire invece di metterci come in altri paesi 20 giorni, 40 o 70 giorni, qui da noi ci mettono 2 anni. Ecco, cioè, ma è più nelle procedure, cioè nella complicazione delle leggi, oppure nelle comportamenti della burocrazia? È una legislazione, per esempio, che noi abbiamo nella nostra categoria, che è ancora del 1800, tutta roba del 1800. Lei deve vedere questi nostri uffici di cancelleria che ci sono, poverini, io li capisco, continuano ad agire con dei criteri che non sono criteri moderni. Criteri aziendalistici. I criteri aziendalistici ancora non esistono qui nel nostro processo. Cosa consiglierebbe a un giovane che magari è iscritto a giurisprudenza e che vuol fare l'avvocato? Ecco, la preparazione. La prima cosa che bisogna fare, perché lei adesso deve tener conto che mentre una volta uno sapeva di andare a parlare con uno che era dottore procuratore, il quale oltretutto doveva richiedere il 50% di quello che era l'ammontare del compenso della tariffa rispetto a un avvocato. Oggi uno diventa avvocato, anche questo secondo me fu un grande errore, avvocato immediatamente. Il giorno dopo è come tutti gli altri. Beh, però c'è un mercato, poi il cliente può rivolgersi al giovane avvocato o all'avvocato di grido. Ma il giovane può essere bravissimo come può essere scarsissimo. Tutto quello che deriva da questa operazione è rappresentato dalla possibilità che il giovane abbia fatto dei corsi buoni, che sia stato preparato, che sia stato promosso sapendolo o che sia capace di scrivere bene, eccetera, eccetera. Quindi in questo momento noi abbiamo un numero talmente elevato di avvocati per i quali il 150 avvocati che il giorno di venerdì fanno il giuramento e che lunedì devono mettersi a lavorare. Ma qui a Milano ce ne sono 17.700. Lei capisce, non è una cosa semplice. In ogni condominio, dico io, c'è almeno un paio d'avvocati. Quindi andare a scegliere qualcuno piuttosto che un altro non diventa una cosa molto facile. È stata introdotta la pubblicità. Pubblicità che non dovrebbe essere ingannevole, non dovrebbe essere quella che serve per accaparramento esclusivamente di clientela. Che cosa succede? Succede che si mette sul giornale una determinata cifra per un determinato tipo di attività e poi lei non sa se avendo a che fare con uno che fa pagare poco è uno bravo o uno non bravo, perché non può saperlo una cosa di questo genere. Se è un giovanissimo ha dei problemi, però potrebbe essere anche bravissimo. Tutto questo però cosa significa? Significa che siamo troppo numerosi e che quindi questo numero enorme crea prima di tutto la difficoltà ad una preparazione completa. Gli esami sono fatti in un modo assurdo, parlo non solo del periodo di tirocinio, perché ci sono alcuni casi in cui il tirocinio può essere fatto senza bisogno di andare da un avvocato. C'è gente che fa un altro lavoro, poi viene lì per fare l'esame. Quindi sono tutte delle stranezze che determinano una situazione veramente grave nella nostra professione. E su cui l'ordine ha pochi poteri per intervenire. Noi abbiamo le leggi. Siccome controlliamo la preparazione di questi giovani prima di, non dico ammetterli perché non è possibile parlare a missione, per fargli fare poi l'esame dopo il tirocinio, noi dobbiamo fare una specie di esamino di preparazione, ma se noi poi non gli facciamo fare un esame, questo qui ci fa un ricorso al TAR, lo ammettono lo stesso, non è che ci sia una norma in cui c'è una preselezione informatica come c'è in Francia, come c'è in altri paesi del mondo seri. Se noi avessimo potuto fare, come abbiamo richiesto nella nostra nuova legge, preselezione informatica prima di fargli fare il tirocinio, la preselezione informatica dopo i 2 anni di tirocinio e poi un esame diverso da quello attuale, nel senso noi abbiamo in questo momento, fino ad oggi, un esame in cui c'è il codice commentato. Il codice commentato vuol dire che è spiegato tutto, basta solo il codice. Ai tempi miei si teneva solo il codice non commentato, cioè uno poteva conoscere nel fare l'esame quali erano le leggi, e quindi, ma non avere il commento di sentenze che potevano indurre questo signore a fare uno scritto che andava bene, ma che poi non dimostrava esattamente la sua qualità. Ecco, mi sembra di capire che in fondo lei, più che una liberalizzazione, vorrebbe una restrizione della professione di avvocato. Se volessimo essere obiettivi, dovremmo tener conto che il numero è talmente sterminato, ho fatto degli esempi prima, che secondo me c'è solo da restringere. Ma la liberalizzazione che cosa vuol dire? Se la liberalizzazione vuol dire aumentare il numero degli avvocati e basta, secondo me è una follia. Ma se liberalizzazione è quello che noi abbiamo letto in questi ultimi giorni sulla normativa che ci è stata prospettata, se vuol dire fare le società di capitali all'interno degli uffici, questi uffici con società di capitali anche di maggioranza, lei capisce quale disgrazia potrebbe avvenire per il cittadino, che la questione che viene fatta è non solo per risolvere i suoi problemi, ma soprattutto per guadagnare i quattrini a un socio di capitale. Lei capisce che probabilmente andrà bene per la Confindustria, ma per noi non va bene, insomma, ecco. Quindi deve esserci un diretto rapporto professionale tra... Ma sempre, anche in quel momento. Però se il 90%, secondo quello che c'è ultimamente, o quello che ci è stato prospettato, di questa società di professionisti è rappresentato da un socio di capitale, il 10% sono magari 4-5, sono dei poveri disgraziati nelle mani di quello che ha la maggioranza. Sarebbe un modo anche per aprire un po' alle società estere, alle esperienze internazionali. Ma guardi che le società estere in Francia e in Germania queste cose non esistono. Cioè la società di capitali non esiste in altri paesi, solo in America, solo forse in Inghilterra, ed è una cosa che per noi non è una cosa fattibile. Noi abbiamo delle situazioni drammatiche. Lei sa, il nostro è un piccolo paese. Le questioni di carattere di incompetenza. Qui uno che, per esempio, diventa, faccio per dire, il socio della Fiat, o la Fiat diventa socio di quel determinato studio legale, lei si troverebbe in una situazione di incompatibilità con mezza Italia. Quindi lei farebbe delle cause sulla base delle dichiarazioni del capo di quella società che ha il 90% di capitale o anche il 60% di capitale e deve svolgere le sue attività secondo le sue richieste, con difficoltà di terzietà o di incompatibilità e conflitti di interesse che lei ha delle difficoltà a trovare. Quindi l'avvocato deve essere una professione indipendente? Questo è pacifico. Se si trova in situazioni di non terzietà assoluta, lei fa gli interessi di quel tale che non ha terzietà, non gli interessi del suo cliente. Questa è anche uno, da un punto di vista deontologico, una delle cose che noi andiamo ad esaminare in modo perfetto, ed è un motivo che può essere di sospensione ma anche di radiazione. Ah, in questo senso quindi l'ordine ha anche un compito appunto deontologico. Beh, di una delle cose fondamentali. E lo svolge... Cioè svolgere l'avvocatura in modo serio vuol dire avere un'avvocatura che da un punto di vista deontologico si comporta bene. Ci sono delle norme che una volta erano tre parole, specchiate di libata condotta. Oggi c'è addirittura delle specificazioni per le quali l'avvocato che si comporta male può essere sospeso, radiato, eccetera, eccetera. Lei si capisce, di fronte a una situazione di questo genere, perdere la propria attività completamente, l'avvocato dovrebbe starci attento. Dico dovrebbe perché qualche volta noi ci rendiamo conto che non ci sta troppo. Che anche gli avvocati tentano un po' a salvare se stessi. Allora, per concludere, un'osservazione guardando un po' a questo 2012, che cosa si augura lei come avvocato? Io mi auguro che si tenga conto della legge professionale che noi avevamo predisposto, che avevamo dato al ministro Angelino Alfano il 27 febbraio del 2009, che è stata approvata davanti al Senato nel novembre del 2010 e che siamo arrivati alla fine del 2011 e alla Camera non è ancora stata approvata. Noi riteniamo che tutto quello sforzo che dopo 77 anni ha condiviso l'intera avvocatura italiana venga aiutato e venga approvata quella norma. Anche gli avvocati sono vittime un po' delle lungaggini parlamentari. Beh, come vabbè, i cittadini sono un po' vittime. Non delle parliamo lungaggini. Di quello. Lei si rende conto, dopo aver condiviso tutta l'avvocatura italiana dopo 77 anni quel progetto di legge, lei si ritrova quegli stessi che avevano partecipato che dicono: no, non va bene questo. 770 emendamenti. Grazie, grazie all'avvocato Paolo Giugioli di essere stato con noi oggi. Auguri per il buon anno e anche a tutto l'ordine degli avvocati. Speriamo. Che hanno un compito molto importante all'interno della nostra società. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Valeria Bernardi in regia, a Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.